che è libertà sincera vuole il cuore, quel che vuoi tu o ciò che ti fa bene. Non puoi pensare che sia giusto darti cosa allo stesso modo se diversi si vive insieme. La verità è scomoda e leale, e senza lei nessuno può amare. L'avidità nasconde la realtà, che tu credi che sia un bene, invece è la trappola del potere. Yeah.